I miracoli del curato d'Ars, nell'ombra di Santa Filomena. Un giorno, probabilmente nel settembre 1843, Margherita Humbert, in visita a Don Vianney, suo cugino, raccoglieva dalle sue labbra queste parole: «Il Dio è onnipotente e può fare sempre dei miracoli. Ne farebbe ancora come al tempo antico, ma è la fede che manca». Il servo di Dio sapeva che nella sua parrocchia accadevano cose straordinarie, e varie volte egli medesimo aveva affermato che vi si operava molto bene, ma tutto attribuiva a Dio o ai santi, e specialmente a Santa Filomena. Studiando le origini del pellegrinaggio, abbiamo detto che il curato d'Ars, sconcertato della propria potenza soprannaturale e sorpreso della venerazione della folla, fu felice di poter tutto attribuire alla sua cara piccola santa e di nascondersi dietro la sua gloria. Ma non vi riuscì mai. La folla aveva fiducia nell'intercessione di Santa Filomena, di cui riconosceva i prodigi, ma molti osservarono che le suppliche non erano esaudite quando mancava la preghiera del curato d'Ars. Aveva un bel ripetere: «Io non compio nessun miracolo, non sono che un povero ignorante pastore di pecore. Rivolgetevi a Santa Filomena, a cui non domandai mai nulla senza essere esaudito». Queste parole non diminuivano la generale ammirazione. Sembrava anche dimenticare che il fatto di essere sempre esaudito dal cielo è già una prova di grande santità e che vi erano dei miracoli che accadevano all'atto della sua benedizione o alla sola imposizione delle mani. Non aveva altra occupazione che glorificare Dio con la salvezza delle anime. Era questa la sua vera missione. E considerava perciò come secondari i miracoli di guarigione corporale, apprezzando invece i miracoli di conversione. «Vorrei proibire a Santa Filomena di fare miracoli per il corpo», disse egli un giorno. «Bisogna che ella guarisca soprattutto le anime. Questo povero cadavere che deve essere distrutto non è gran cosa. Se invece Santa Filomena avesse voluto continuare a guarire infermi, nel desiderio del santo curato avrebbe dovuto manifestare altrove la sua bontà. Questi prodigi materiali visibili attiravano le moltitudini nel villaggio d'Ars, mentre l'umiltà del santo avrebbe desiderato una condotta diversa. «Signor curato», gli disse un giorno Don Toccanieri, «corrono voci contro di voi». «E che si dice dunque? Pare che voi abbiate proibito a Santa Filomena di fare qui dei miracoli». «È vero», rispose egli, «perché se ne parla troppo. Non si direbbe, ascoltandolo, che abbia stipulato un contratto con la sua santa preferita, ma spesso il miracolo avveniva prima ancora che incominciasse la novena ed allora si assisteva a divertenti scenette. Dopo la guarigione di un ragazzo rachitico, il povero curato si lamentava: Santa Filomena, mi ha mancato di parola, avrebbe dovuto guarire questo bambino altrove». Ma tosto mutava aspetto. Cuore formato alla più sensibile delicatezza, tremava al pensiero di avere dato un dispiacere alla sua cara piccola santa. «Perché le proibite di guarire la gente?» gli domandava un giorno Caterina Lassagni. «Credete che ella sia contenta?» «Durante tre notti sembrava mi mancasse qualche cosa», rispose egli. «Sentivo come un vuoto. Santa Filomena sembrava rimproverarmi di non pensare abbastanza a lei, e perciò le promisi di pregarla un po' di più». Vedendo il curato d'Ars tenere il broncio a Santa Filomena, i pellegrini cominciarono ad invocarla meno. Vi erano allora, fra il santo vivente e la santa del paradiso, piccole scene che avevano per testimone solo gli angeli. Si era avuta una guarigione durante la messa celebrata da Don Vianney sull'altare di Santa Filomena, senza che egli se ne accorgesse. Mentre firmava delle immagini, Don Raimond gli narrò il prodigio. «Signor curato, era da molto tempo che Santa Filomena si riposava. Durante la messa la sgridai con queste parole: "Grande santa, se non fate più miracoli, perderete la vostra fama". I miracoli fatti in unione con Santa Filomena. Sulla scorta di innumerevoli testimonianze, raccolte tanto nel processo di canonizzazione quanto da coloro che hanno fatto studi sul santuario d'Ars, possiamo dire che i miracoli che coronarono il nostro santo di un'aureola anticipata erano compiuti da lui in unione con Santa Filomena. Quando gli sembrava che la guarigione fosse desiderabile, Don Vianney ne formulava il voto a viva voce o nel silenzio ed incaricava Santa Filomena di ottenere da Dio la felice realizzazione. E forse per questo che la chiamava la sua incaricata d'affari, il suo prestanome, la sua ambasciatrice presso Dio. La maggior parte dei miracoli d'Ars non ebbero apparentemente altra genesi. Ci restano tuttavia dei casi ove si direbbe che Dio non lasciò alla piccola santa il tempo di intervenire e dove il suo grande amico ebbe la confusione di vedersi sorpreso in flagrante delitto di miracolo. Abbiamo già parlato della povera Suor Dositea, religiosa della provvidenza di Viteux affetta da etisia, della quale il medico aveva detto che sarebbe partita al cadere delle foglie. Don Vianney un giorno la vide confusa tra la folla dei pellegrini e la chiamò al confessionale prima del suo turno. «Sorella mia», le domandò, «perché desiderate guarire?» E quando elle ebbe esposte le sue ragioni, il santo conchiuse: «Ebbene, andate a domandare la vostra guarigione nella cappella di Santa Filomena. Intanto anch'io pregherò per voi». Suor Dositea andò a pregare la piccola Vergine Martire e si sentì subito guarita. Questo fatto succedeva nel maggio 1853, quando la religiosa aveva 25 anni. Visse fino all'età di 89 anni e morì alla provvidenza di Viteux l'11 febbraio 1914. Durante la grave malattia che colpì Don Vianney nel maggio 1843 e che fece temere fosse vicina la sua morte, Claudina Raymond Corsevet di Chalon-sur-Saône, ammalata alla laringe e dai bronchi, venne ad Ars per domandare la guarigione. Non poteva pronunciare parola senza provare alla gola un dolore simile alla bruciatura di un ferro rovente e per farsi comprendere doveva scrivere su una tavoletta. Questo fu anche il modo che usò per indirizzarsi al curato d'Ars in quella mattina, nella quale anch'egli, appena convalescente, discendeva per la prima volta in chiesa. «Figlia mia», le rispose, «i rimedi della terra sono inutili e ne avete usati già troppi, ma il Signore vuole guarirvi. Rivolgetevi a Santa Filomena, deponete la vostra tavoletta sul suo altare, insistete e ditele che se non vuole rendervi la vostra voce, almeno vi ceda la sua». «Immediatamente», dice la signora Raymond Corsevet, «andai a gettarmi ai piedi della piccola santa e dopo aver fatto la mia preghiera fui guarita. Da 6 anni soffrivo atrocemente e da 2 anni non potevo più parlare. Ritornata dalla signora Favier, dove prendevo alloggio, lessi ad alta voce davanti a varie persone alcune pagine sulla confidenza nella Santa Vergine. Ero perfettamente guarita. L'11 agosto seguente, per la festa di Santa Filomena, la signora Raymond Corsevet univa la sua voce ai canti dei pellegrini in onore della piccola santa. Una mia bambina di nome Margherita, raccontava nel 1863 la signora Gerin, sorella di Don Vianney, soffriva per un polipo alla laringe. Non avendo potuto guarirla i medici, si pensò di condurla dallo zio curato d'Ars, che consigliò di fare una prima novena a Santa Filomena. Non essendosi ottenuto nessun miglioramento, ne consigliò una seconda, alla quale promise di unirsi egli stesso. Nella notte dell'ottavo giorno, la piccola Margherita si sentì male, vomitò catarro in abbondanza e si trovò perfettamente guarita, né soffrì mai più per simile male. Una giovane dei dintorni di Charlieu, nella Loire, semi-paralizzata, che riusciva stentatamente a reggersi sulle gambe e non poteva servirsi del suo braccio sinistro, volle raccontare al curato d'Ars la lunga storia delle sue miserie. Il santo confessore la interruppe: «Andate a parlarne a Santa Filomena». Facendosi strada tra la folla serrata dei pellegrini, si recò con fatica all'altare della piccola santa e supplicò: «Rendetemi il mio braccio, oppure datemi il vostro». Guarì immediatamente. Alzatasi, corse all'orfanotrofio per mettere a parte della sua felicità l'amica Caterina Lassagne. Un giovane di Feurs, nella Loire, chiamato Baron, essendo caduto da cavallo, rimase piegato su se stesso con la testa fra le ginocchia in doloroso martirio. In questa condizione penosa fu trasportato al villaggio d'Ars. «Rivolgetevi a Santa Filomena», gli disse Don Vianney. Ogni giorno due custodi della chiesa andavano a prendere il ferito all'albergo e lo portavano nella cappella della piccola santa. Questo giovane si rialzò a poco e dopo 2 mesi, senza nessun intervento medico, era guarito perfettamente. Carlo Brasi di Sébazard, Puy de Dôme, aveva le gambe quasi inerti e non poteva camminare senza grucce. Per consiglio di Don Vianney fece una novena a Santa Filomena, ma senza risultato, perché non aveva una fede sincera. Nelle medesime disposizioni cominciò una seconda novena. «Padre mio, pensate voi che io possa lasciare qui le mie grucce? Amico mio, ne avete ancora bisogno!» Ma la grazia toccava sempre più il suo cuore e gli rinnovava la fede. Alla fine della novena, il 15 agosto 1858, festa dell'Assunzione, il povero infermo, dopo la messa del santo, camminando a stento, si recò alla sagrestia. «Dunque, padre mio, è questa volta che devo portare le mie grucce a Santa Filomena? Fate pure!» L'ammalato si alzò guarito, sollevò in aria le grucce diventate inutili e con gioia se ne andò fra la folla esultante a portarle alla sua celeste benefattrice. Nel ritorno, scriveva l'8 dicembre Don Bazin, parroco di Sébazard, Carlo Blasi fece a piedi e senza fatica 18 chilometri di strada e oggi di gode perfetta salute. Più tardi prese l'abito della Sacra Famiglia di Belley. Il mercoledì delle ceneri 25 febbraio 1857 arrivò ad Ars una povera donna di Saint-Romain in Saône-et-Loire, Anna Thorin, maritata de Voulet, che spingeva avanti a sé una misera carrozzetta nella quale stava suo figlio, un bel bambino di 8 anni colpito da coxalgia. Affidato il figlio alla famiglia Vernoux per assicurarsi l'udienza del santo, la coraggiosa madre, benché molto stanca, passò le prime ore della notte nel vestibolo della chiesa. Il santo, appena l'ebbe vista e senza che gli fosse presentata, le disse: «Venite prima degli altri, voi avete fretta». Cosa strana, né prima né dopo la confessione si ricordò di far parola di suo figlio infermo. Addolorata, ritornò di nuovo alla chiesa e questa volta col fanciullo per assistere alla messa del curato e giunse a collocarsi vicino alla sagrestia. Quando entrò Don Vianney si voleva chiudere la porta, ma la signora de Voulet vi si oppose ponendo il suo piede fra lo stipite e la porta. Mentre parlottava col fratello Gerolamo si udì la voce del santo: «Entri pure!» Si pose in ginocchio ai suoi piedi e gli presentò il figlio da benedire. «Questo figliuolo», riprese Don Vianney, «è troppo grande per farsi portare. Alzatevi, buona donna, e mettete il bambino in terra». «Ma non può». «Potrà. Abbiate fiducia in Santa Filomena». Il curato d'Ars baciò in fronte l'innocente e disse: «Andate, buona madre, andate a pregare davanti a Santa Filomena. Ella lo guarirà». E siccome Anna de Voulet voleva riprendere l'infermo sulle sue braccia, egli insistette: «No, no, lasciatelo camminare». Il piccolo, reggendosi a stento e tenuto per mano, poté arrivare fino all'altare della piccola santa. Si inginocchiò da solo e vi rimase circa 3/4 d'ora senza alcuna fatica, ora guardando la statua di Santa Filomena ed ora scorrendo un libro di pietà. Sua madre aveva il volto bagnato di lacrime, non pregava più e non sapeva dove fosse. Il fanciullo infine si alzò, chiese da mangiare e si mise a camminare. Sua madre gli aveva preso la mano, ma egli le sfuggì e corse scalzo verso la porta. Avrebbe voluto uscire, ma in quel momento pioveva. «Vedi, mamma, se avessi portato i miei zoccoletti!» Il fanciullo li aveva già domandati durante il viaggio. Anna de Voulet, prendendo il figliolo sotto braccio, lo portò dallo zoccolaio e, cessata la pioggia, il fanciullo guarito fu felice di poter uscire sulla strada a divertirsi con gli altri ragazzi della sua età. Benché gli abitanti di Ars fossero abituati ai miracoli, questo fece profonda impressione nel villaggio. Giunse l'eco di ciò alle orecchie di Don Vianney, che appunto in questa occasione accusò Santa Filomena di avergli mancato di parola. Il santo fa miracoli da solo. Ma qualche volta il curato d'Ars compì miracoli senza invocare, almeno apparentemente, Santa Filomena. Eccone alcuni esempi. Una donna inferma, della quale si ignora il paese, racconta Suor Saint-Lazare, era giunta ad Ars con la diligenza ed appoggiata alle sue stampelle andava incontro a Don Vianney. «Su, camminate», le disse il servo di Dio, ma ella esitava. «Camminate dunque, perché ve lo si dice», aggiunse Don Toccanieri, che accompagnava il curato d'Ars. La donna abbandonò subito le stampelle. «Prendetele con voi», le comandò allora Don Vianney, vedendo il movimento che si produceva nella folla. Vi dirò che un giorno, scrive Giovanni Claudio Viré di Cusanz in uno dei suoi memoir, essendo ad Ars, andai a confessarmi dal santo curato verso le ore 5 di sera. Lo vidi entrare in sagrestia tenendo per mano una bambina di 13 o 14 anni che aveva gli occhi velati da una fascia bianca. L'accompagnava sua madre, che entrò pure in sagrestia. Io ero in attesa e le vidi presto uscire. La figlia non aveva più gli occhi bendati. Le seguii fuori di chiesa e domandai: «Perché siete entrate in sagrestia dal curato?» «Oh, signore», mi rispose la madre, «mia figlia era cieca da 2 anni, non vedeva più nulla ed appena scorgeva un barlume della luce del sole. Ma dopo che ha parlato col curato, ella vede bene anche la croce che tiene in mano». Io stesso le presentai allora un libro di preghiere per vedere se ella sapeva leggerne il titolo e la ragazza mi rispose: «Vedo bene le lettere, ma sono 2 anni che non leggo più». Raccontai il fatto al conte di Garez, sindaco di Ars, che si trovava sulla porta della chiesa, ed egli, senza farne gran caso, rispose: «Oh, il nostro santo curato fa ben altri miracoli». Nel 1854 viveva a Grenoble una bambina di 5 anni di nome Mathilde Besançon. Un giorno, per gioco, una sua compagna di 12 o 13 anni la prese per la testa vicino alle orecchie e la sollevò da terra con tale violenza che i muscoli del collo si lacerarono. La bimba non poteva più tenere dritta la testa senza appoggio. Dopo lunghi mesi, non vedendo alcun risultato delle cure fatte, i genitori la condussero ad Ars per invocare l'aiuto di Santa Filomena, ma le loro preghiere sembravano inutili. Da buoni cristiani assistettero alla messa di Don Vianney, al quale avevano raccomandato la piccola inferma. Ed ecco, nel silenzio dell'elevazione, la bimba si alza gettando un grido: «Mamma, guarda, sono guarita!» Difatti, ella poteva girare la testa da ogni parte con facilità e senza sostegno. Un giorno del 1855, la signora Raymond Corsevet, che 2 anni prima era stata guarita ad Ars da una laringite, veniva ancora ad inginocchiarsi al confessionale del curato d'Ars e chiedeva: «Posso sperare che Santa Filomena mi conserverà la voce per sempre?» «Sentite, figlia mia», rispondeva il santo, «alcuni giorni or sono una buona donna della campagna venne qui con una bambina di 7 anni muta dalla nascita. La povera madre stava confessandosi quando d'un tratto tacque. Figlia mia», le disse, «continuate». «Oh padre, è impossibile. Pensate che non ebbi mai il piacere di udire parlare la mia bambina ed ora, sentite, è qui vicino al confessionale. Che grazia, che grazia!» La bambina era guarita e parlava distintamente. Questa donna, aggiunse il curato, era troppo commossa per poter continuare la sua confessione. Non faceva che ripetere piangendo: «Che grazia, Dio mio, che grazia!» Il 1 febbraio 1850 una persona di Virigné, piccolo villaggio del dipartimento di Saint-Galmier nella Loire, la giovane Claudina Venet, fu condotta ad Ars per essere guarita da cecità e sordità venute in seguito ad una febbre cerebrale. Don Vianney non aveva mai visto questa inferma e nessuno gliene aveva parlato. Il 1 febbraio la giovane stava davanti alla porta della chiesa quando passò il santo, il quale, senza proferire parola, la prese per mano, la condusse alla sagrestia e la fece inginocchiare al confessionale. Appena ricevuta la benedizione di Don Vianney, la giovane Venet recuperò la vista e l'udito, ma terminata la confessione, il servo di Dio le fece questa strana predizione: «Avete recuperato la vista e l'udito, ma ritornerete sorda ancora per 12 anni. È Dio che vuole così». Claudina Venet uscì dalla sagrestia e non tardò ad accorgersi della verità delle parole del confessore. Non udiva più nulla. Questa infermità, secondo la predizione del 1 febbraio 1850, persistette per 12 anni ancora. Calma e rassegnata, felice per aver recuperato la vista, l'inferma aspettava il giorno della guarigione completa, che avvenne il 18 gennaio 1862. Nel 1855 arrivava ad Ars la giovane Farnier di Montchanin, Saône et Loire, per implorare la guarigione di una gamba. «Figlia mia», le disse il curato, «voi disobbedite spesso a vostra madre e le rispondete tanto male. Se volete che il Signore vi guarisca, correggetevi da questa mancanza. Oh, quanto vi resta da fare! Ricordatevi di una cosa. Voi guarirete, ma a poco, secondo gli sforzi che farete per correggervi da questo difetto». Come è facile immaginare, al suo ritorno a Montchanin, la giovane Farnier fu più obbediente e più rispettosa verso sua madre, e da allora la sua gamba, di 10 centimetri più corta dell'altra, cominciò ad allungarsi gradatamente, in modo che in pochi anni la sua infermità era completamente scomparsa. Nel 1856, racconta il signor Ippolito Paget, fui testimonio della guarigione di una giovinetta muta da 3 anni in seguito ad una paralisi. Dopo essersi confessata per iscritto al servo di Dio ed avere ricevuto la Santa Comunione dalle sue mani, ella ebbe la fortuna di recuperare perfettamente l'uso della parola mentre faceva il ringraziamento. Potei parlare con lei e mi convinsi della verità della guarigione, che mi narrò nei seguenti termini. Durante il ringraziamento, dai movimenti che faceva la mia lingua per seguire la preghiera del mio cuore, compresi che potevo parlare. Una signora di Lione voleva presentare al servo di Dio un fanciullo che aveva un tumore sopra un occhio, per il quale si diceva necessario un intervento chirurgico, ma prima di sottoporlo all'atto operatorio lo si volle far benedire dal servo di Dio. Mentre Don Vianney levava la sua mano sulla fronte del ragazzo, la donna prese la santa mano e le fece toccare la parte ammalata, che subitamente guarì. L'avvenimento suscitò rumore in mezzo alla folla ed il curato d'Ars cercò di correre ai ripari. La sera medesima, mentre Don Tocanier e il fratello Atanasio lo accompagnavano nella sua camera, rivolse ad essi queste parole: «Sentite, mi è successo oggi un bello scherzo. Ne ho avuto vergogna. Se avessi trovato il buco di un topo, mi sarei nascosto volentieri». «Cos'è successo?» chiese il missionario. «Nonostante quello che si dice, il buon Dio fa ancora dei miracoli. Una signora mi condusse un bambino che aveva un gran male vicino ad un occhio. Mi fece toccare il male e questo subito disparve». «Questa volta», riprese Don Tocanier, «non direte che è Santa Filomena». Il santo sembrò confuso, ma poi rispose: «Ah, ella può ben avervi avuto qualche parte». Rassegnazione cristiana e fede. Non è forse lecito concludere dalle ultime parole del curato che in tutti questi casi di guarigione invocava subito con un grido del cuore la sua cara piccola santa, oppure che aveva come una misteriosa visione della parte da lei compiuta in queste circostanze. In ogni modo, ebbe cura costante di attribuire a lei tutte le grazie di guarigione e alla Santa Vergine le grazie di conversione. Gli scritti del processo contengono la narrazione di almeno una 30 di miracoli e si sa che in seguito altri testimoni ne hanno aggiunti ancora. Si contano a migliaia gli ammalati che domandarono al curato d'Ars la guarigione, ma non si può dire in quale proporzione siano stati esauditi. È certo che per la maggior parte non furono guariti perché il santo implorava per essi doni migliori, apprezzando il beneficio soprannaturale della sofferenza cristiana. «La più grande croce è quella di non averne», proclamava egli. Ed al fratello Atanasio, che gli confidava le sue pene, rispondeva: «Tanto meglio, amico mio, tanto meglio. La sofferenza rianima la fede». Un giorno che lo seguì presso un malato, dice Don Dufour, lo intesi dire: «Amico mio, non so se devo pregare per la vostra guarigione. Non si deve levare la croce dalle spalle che sanno portarla così bene». Quando qualcuno si rivolgeva a lui implorando una guarigione, Don Vianney esigeva come condizione indispensabile la fede. «Oh donna, la tua fede è grande», aveva detto il maestro prima di guarire la figlia della Cananea, ed il curato d'Ars non esigeva di meno quando gli si domandava un prodigio. «Non è così che si deve fare quando si vuole guarire», rispondeva ad un giovane di Marsiglia senza fede e di cattivi costumi che era soggetto ad attacchi di epilessia. «Sia, fate una novena di preghiere», diceva ad una donna di Montfleur nel Giura, che aveva fatto il pellegrinaggio secondo le intenzioni di un parente ammalato, ma aggiunse anche esitando: «Non so se il buon Dio vi ascolterà. In quella casa non vi è maggiore religione che in una scuderia di cavalli». L'ammalato moriva alla fine della novena. Un cittadino di Nantes, sofferente di artrite, mentre progettava di andare a Parigi per fare una cura assai costosa, fu consigliato da uno dei suoi amici, il buon Lionnet, tesoriere di Saint-Nicolas, di recarsi ad Ars, ove avrebbe sperimentato che le preghiere di Don Vianney erano più efficaci di tutti i consulti degli specialisti. Ma l'ammalato vi si opponeva e metteva le sue condizioni. Allora si scrisse da Nantes al fratello Atanasio pregandolo di spiegare la cosa al curato e si ebbe la seguente risposta: «Il curato, che non vuole né se né ma col Signore, mi incarica di farvi sapere che è meglio lasciare partire quel Signore per Parigi, perché quando si domanda qualche grazia mettendo delle condizioni si è sicuri di non ottenere nulla». La vita del santo fu un miracolo continuo. Il miracolo è un segno del divino, il suggello di Dio sulla terra, ma la santità può sussistere anche senza di esso. Così, anche se Don Vianney non avesse fatto alcun miracolo, non sarebbe per questo meno ammirabile. Ma la sua vita non fu del resto un miracolo continuo? È il pensiero di Riba de Neira che, parlando di San Bernardo, nel meraviglioso volume della Vita dei Santi, letto e riletto dal curato d'Ars, dice: «Egli fu il primo ed il più grande di tutti i suoi miracoli». Il medesimo pensiero fu espresso non meno felicemente da un contemporaneo di Don Vianney, il bravo maestro Giovanni Pertinan, suo amico, e dall'occasione infermiere, quando dice: «L'opera più difficile, più straordinaria, più prodigiosa che abbia realizzato fu la sua vita stessa». «Io credo», diceva Don Dubois di Farin, «che il curato d'Ars non avrebbe potuto adempiere le sue funzioni opprimenti senza la soprannaturale assistenza». «È umanamente incomprensibile», aggiunge il canonico Gardet, «che abbia potuto bastare per 30 anni ad un ministero che sarebbe stato sufficiente a far soccombere ogni altro prete più forte di lui. Viveva d'un visibile soccorso divino». A conclusione, ecco quale fu l'apprezzamento espresso da uno dei medici del curato d'Ars: «Dal suo modo di vivere, che mi è ben noto, considero la sua esistenza affatto straordinaria e naturalmente inspiegabile». Così parla il dottor Michel di Coligny. E noi possiamo aggiungere: no, l'era dei miracoli non è finita, ma ci vogliono dei santi, e questi sono troppo rari.